do il benvenuto, ma più che altro direi il bentornato a Lucia Catalete e Dario Molinaro di Art Motel. Ciao ragazzi e bentornati appunto. Ciao, grazie a te. Ciao Rachele. Ci siamo tornati. Esatto, siete tornati, e tra l'altro diciamo col botto, no? Qui in diretta su Radio Città Fujiko, perché parliamo un po' della vostra prima campagna di raccolta fondi per supportare il progetto Arte negli spazi temporanei. Quindi vi voglio chiedere innanzitutto, ragazzi, che cos'è questo progetto e come voi vi inserite appunto all'interno. Art Motel è tra le realtà cittadine selezionate dalla Fondazione Rusconi per il progetto che appunto tu hai nominato Arte negli spazi temporanei. Praticamente si tratta di un'iniziativa che prevede di destinare temporaneamente e gratuitamente immobili sfitti per sedi di arte contemporanea a realtà che in città appunto operano nel settore culturale, e ci siamo anche noi. E, il progetto che presentiamo per la fondazione si chiama L'Ordine della Pizza Bianca. L'Ordine della Pizza Bianca, un nome molto particolare, appunto come ci dicevi prima, ed è sostanzialmente una residenza artistica che permetterà a 5 giovani artisti di lavorare in quello spazio, giusto Dario? Sì, diciamo che noi cerchiamo sempre di concepire le nostre idee in base allo spazio che ci viene assegnato. E in questo caso, dopo aver visitato gli spazi di Via Petroni 22A, abbiamo pensato di trasformarli in un vero e proprio laboratorio, che poi è la nostra idea principe. Quindi nello spazio retrostante, lì sono due spazi suddivisi, nei primi 15 giorni di luglio 5 giovani artisti useranno quel luogo come studio e saranno liberi di lavorare come preferiranno. Questo perché? Perché ci siamo resi conto che molti dei giovani artisti che operano su Bologna purtroppo lavorano nelle loro camerette, quindi non hanno dei veri studi, dei veri spazi per concepire il loro lavoro, e quindi alcuni di loro sono stati premiati da noi ed entreranno dal 2 luglio in quegli spazi. Però diciamo che non si esaurisce qui diciamo il nostro progetto, perché sarà diciamo nostra cura invitare, mentre appunto i ragazzi sono lì al lavoro, una serie di diciamo personalità che operano a Bologna nel settore dell'arte contemporanea. Sì, sì, addetti ai lavori del sistema arte, quindi curatori, galleristi, giornalisti, artisti più affermati, che potranno visitare lo spazio di lavoro dei giovani artisti e quindi creare un confronto tra loro. Che poi diciamo che anche l'altra parte della nostra mission, cioè il creare un confronto tra giovani e diciamo così meno giovani. Ecco. Sentite ragazzi, l'avete nominato appunto anche voi prima, l'Ordine della Pizza Bianca, no? Il nome, il titolo che avete deciso di dare a questo progetto, un nome sicuramente molto particolare, e ce lo volete raccontare? Certo, l'ispirazione ci viene da un grande del fumetto italiano che è Andrea Pazienza. Sì. Nel suo fumetto Pompeo, lui a un certo punto nel suo delirio di vignette parla di un nuovo ordine che dovrà essere istituito, e parla di questo ordine della pizza bianca, e noi abbiamo pensato di finalmente istituirlo e concepirlo questo ordine, quindi lo spazio bianco di lavoro per la pizza bianca verrà condita dai 5 giovani artisti che la coloreranno e la farciranno, questa è l'idea. Con il loro talento e la loro creatività. Chiaro. A questo punto ragazzi non ci rimane che capire come poter partecipare e sostenere appunto il progetto con la raccolta fondi. Assolutamente, abbiamo bisogno di voi tutti, perché praticamente è nostra diciamo premura garantire ai ragazzi che lavoreranno lì nello spazio tutta una serie di condizioni, diciamo, di serenità, no? Per lavorare in tranquillità in quello spazio. Quindi vogliamo garantirgli materiali necessari per la produzione artistica, partendo dalle basi, carta, colori, pennelli. Quindi noi vogliamo che appena appunto i ragazzi cominciano la residenza avranno a disposizione una serie di appunto ferri del mestiere che possono utilizzare. Quindi abbiamo ben pensato di lanciare la nostra prima campagna di raccolta fondi sfruttando la piattaforma Produzioni dal Basso, e chi vorrà sostenersi potrà donare attraverso bonifico bancario oppure facendo una donazione su una carta collegata alla piattaforma, e insomma aiutarci in questa nuova avventura. Naturalmente i link per diciamo approdare sulla piattaforma sono presenti sui nostri canali social, quindi da lì è poi facile arrivare alla donazione, quindi niente, sosteneteci e aiutateci, ne abbiamo bisogno. Sì, più che altro noi lo facciamo per i ragazzi, ovviamente, certo. Quindi loro hanno bisogno di essere sostenuti, e quindi noi cerchiamo di farlo anche attraverso questa questa azione. Certo, assolutamente. Poi sono tutti giovanissimi, appunto, come dicevate voi, quindi proprio veramente un sostegno anche, come dire, alle nuove generazioni, all'arte e il suo futuro, ecco. Esattamente. Poi se volete fare una donazione direttamente a Lucia o a Dario, No, basta specificarlo lì, va bene. Bene, ragazzi, io come sempre vi ringrazio, vi faccio i complimenti, ma soprattutto un grandissimo in bocca al lupo perché luglio si avvicina, quindi immagino, insomma, avrete tantissime cose da fare e ci vediamo negli spazi di Via Petroni. Vi Va benissimo. aspettiamo assolutamente, grazie per lo spazio come sempre.